Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Ieri abbiamo parlato degli aumenti dei ticket sanitari, oggi invece passiamo a quelli confermati per il 2012 che ci ritroveremo nelle bollette della luce e del gas. Potremo andare avanti per giorni ad approfondire i rincari dell'anno nuovo, purtroppo dalla benzina alle autostrade, dal carrello della spesa alla casa di cui abbiamo tanto parlato spesso. L'anno nuovo insomma sembra non volerci lasciare scampo, le spese per le famiglie aumentano e dovranno inevitabilmente cambiare le scelte e molte abitudini di consumo. Molti italiani in questi giorni si staranno probabilmente mettendo a tavolino bollette e calcolatrici alla mano, pronti magari attraverso internet a confrontare le diverse offerte e tariffe proposte dal mercato libero, cercando di capire quali saranno le scelte più opportune da fare a seconda delle esigenze proprie, individuali e familiari. Se sugli aumenti del petrolio che pesano sul gas c'è ben poco da fare, molte valutazioni si potranno fare invece sull'opportunità di passare ad impianti fotovoltaici, senza dimenticare che con il 2012 si conclude anche la prima fase introduttiva della tariffa bioraria e il divario fra le due fasce di prezzo aumenta ancora. La fascia di prezzo, intendendo appunto la fascia di prezzo applicata quando si utilizza l'elettrodomestico durante la giornata piuttosto che durante la notte. I conti che molti di voi si stanno apprestando a fare, come dicevo, calcolatrice alla mano nel salotto di casa, cerchiamo di farli in modo utile per voi anche qui a Salva Danaio questa mattina, con qualche consiglio valido per tutti e l'approfondimento sulle novità che ci aspettano nell'anno nuovo. Allora, prima di tutto ringrazio e saluto per essere ritornato a mettersi a nostra disposizione, a disposizione del nostro programma, l'ingegnere Alberto Grossi, direttore consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Buongiorno ingegnere, bentornato e buon anno naturalmente. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Anche se voi avete dovuto per forza di cose inaugurare l'anno comunicando i nuovi rincari che arriveranno, bollette per quello che riguarda l'elettricità più care del 4,9%, per quello che riguarda il gas un rincaro del 2,7%. Certo, questo dipende da alcuni elementi che sono stati anche detti, già anticipati nell'introduzione: rincaro del petrolio piuttosto che il peso crescente del fotovoltaico nella bolletta elettrica, più gli effetti indotti anche dallo sbilancio delle reti, quindi il rinforzo delle strutture delle reti per far fronte a queste che sono fonti sicuramente rinnovabili e che salutiamo con favore, ma che introducono qualche elemento tecnico di gestione delle reti. So che avete quantificato, ingegner Grossi, anche quanto rincaro medio per famiglia deriverà da queste percentuali che abbiamo appena indicato. Sì, infatti io partivo da quello, perché se ipotizzato, se quantificato in 22 euro su base annua per l'energia elettrica e 32 euro per il gas, e queste cifre sono interessanti perché se confrontate con le opportunità che ci offre il mercato libero possono fare nascere e scaturire delle scelte dei consumatori di valutare il cambio del proprio fornitore di energia, se ovviamente si è ancora in maggior tutela, perché ricordo che più di 5 milioni di famiglie sono già passate al mercato libero. Questi aumenti riguardano sicuramente chi non è ancora passato al mercato libero. Detto questo, anche chi ha già approfittato delle opportunità offerte dal mercato che si è liberalizzato nel 2007, non è detto che poi a sua volta possa, anche indagando sul mercato, trovare anche un fornitore che pratichi delle condizioni ancora migliori. Noi tra l'altro poi vi forniremo, e questo lo anticipo già ai nostri ascoltatori, gli strumenti per poter fare una buona ricerca di un fornitore, di un distributore alternativo, perché oltre al trova offerte dell'autorità, poi l'ingegner Grossi ci spiegherà come funziona appunto questo comparatore. Ci sono anche iniziative private, noi poi ve ne racconteremo un paio: SOS Tariffe e My Best Option, perché avremo i rispettivi rappresentanti di queste due aziende, di questi due comparatori, Alberto Mazzetti per SOS Tariffe e Daniele Viganò appunto per mybestoption.it. Però abbiamo anche un'organizzazione dei consumatori, saluto e ringrazio per essere ritornato a Salva Danaio Pieraldo Isolani, responsabile settore energia Unione Nazionale Consumatori. Isolani, buongiorno, buon anno anche a lei. Buongiorno anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Isolani, c'è preoccupazione tra le famiglie italiane per questi nuovi rincari che arriveranno, perché chiaramente, come ci diceva l'ingegner Grossi, lo dicevamo anche noi, possiamo sicuramente ancora continuare a modificare le nostre abitudini di consumo, spegnere di più la corrente, magari, come dire, il riscaldamento, metterlo ad un livello un po' inferiore in questo periodo, tra l'altro la meteorologia un po' anche ci aiuta, però comunque sono spese che, se abbiamo dei bambini in casa, se abbiamo degli anziani in casa, non sempre possiamo drasticamente modificare in termini di comportamento. C'è preoccupazione tra le famiglie, cosa dice l'Associazione dei Consumatori? Moltissima preoccupazione, perché purtroppo questi aumenti non sono i soli, ce ne si assommano a tante altre cose che sono venute, dalla manovra agli aumenti delle tariffe autostradali e quant'altro. Quindi la preoccupazione è veramente grande, però quello che bisogna che anche tutti i cittadini comprendano è sì di cercare di fare il meglio, di comportarsi in modo il migliore possibile per cercare di non sprecare i soldi e consumi, ma soprattutto appoggiare tutte le iniziative che tendono ad incidere nella struttura del sistema che provoca questi aumenti, perché il problema di fondo è cambiare il sistema che provoca gli aumenti in modo che in prospettiva siano meno forti. Insomma, ci sono alcune cose che non sono controllabili. Il prezzo del petrolio, per esempio, non è controllabile né dall'autorità né dal singolo cittadino italiano, però gli altri componenti del costo dell'energia elettrica e del gas possono essere controllati. Se i benzinai potessero andare a comprare la benzina liberamente sul mercato, anziché essere obbligati a comprarla a prezzo che gli impone ciascuna azienda che c'ha il marchio, probabilmente avremmo un prezzo di carburante più basso. Faccio degli esempi, ma sarebbero tanti. Vorrei cercare di spostare, come dire, l'attenzione appunto sugli elementi strutturali che vanno cambiati, perché non si debba sempre continuamente lamentarci degli aumenti. È vero, insomma, c'è tutto quel quadro molto dispettoso di oneri di sistema che chiaramente poi gli utenti finali si trovano a dover subire senza poter far molto. Noi oggi, anche proprio per la tipologia della nostra trasmissione, per le caratteristiche che la nostra trasmissione, ci occuperemo prevalentemente di abitudini concrete dei consumatori, che cosa possono fare loro per naturalmente cercare di alleggerire al massimo questo peso incomprimibile, come dicevo e come lo abbiamo appunto definito più volte, nell'ambito del bilancio familiare. Prima di tornare a richiacchierare con voi, devo ricordare come sempre che i nostri ascoltatori possono raccontarci la loro farci la loro testimonianza, raccontarci le loro esperienze, per capire intanto quanto negli ultimi periodi, perché quello di cui parliamo stamattina non è il primo aumento che è arrivato nell'ultimo anno e mezzo, quindi quanto è aumentata la vostra bolletta, come siete corsi ai ripari, se solo modificando le abitudini di consumo o anche cercando un operatore diverso che vi rifornisse, oppure avete banalmente, non so, spostato tutto l'utilizzo della lavatrice piuttosto che della lavastoviglie durante la notte, oppure ecco, se siete alla ricerca anche di un operatore diverso, che tipo di ricerca fate, come vi siete mossi oggi? Il mercato è molto aggressivo da questo punto di vista, tutte le aziende si sono mobilitate con chiaramente call center che chiamano in continuazione gli utenti per fare delle nuove proposte, è ritornato prepotente il porta a porta, nulla da dire su questo, a patto che naturalmente il venditore si comporti correttamente con i consumatori nei quali si imbatte. Quindi insomma, anche voi consumatori, come vi state muovendo? 800 24 00 24 per raccontarcelo in diretta, ci potete scrivere al 349 238 6666, potete scrivere a salvadanaio@radio24.it e siamo molto contenti anche che state animando molto il nostro profilo su Facebook salvadanaio-radio24.it. Vorrei separare le due voci di spesa. Ingegner Grossi, ritorno da lei, autorità per l'energia elettrica e il gas, per capire perché nella nostra bolletta, e questo così anche per fare un po' di ABC di educazione energetica ai nostri ascoltatori, pesa tanto il comparto delle fonti rinnovabili, perché è una voce che alla fine ricade anche sulla bolletta dei consumatori. Questa non è una scelta dell'autorità, è una scelta che è stata adottata a livello di governo per incentivare queste fonti e che hanno un peso in aumento, perché c'è stato un boom nel 2011, si è passati da 2.800 a quasi 13.000 megawatt installati in un solo anno, e quindi questo trascina gli incentivi. Ecco, però io vorrei spostare il fuoco da questi problemi, no, quanto alle opportunità che ci stanno sul mercato. Io all'inizio dicevo 22 euro di aumento su base annua, stiamo ovviamente parlando di una famiglia tipo, quindi con 2700 kWh di consumo. Allora, se noi andiamo a vedere sul nostro trovo offerte, ma credo che qualsiasi altro comparatore di offerta per la città di Milano oggi, troviamo che della decina di offerte, quella più conveniente, di cui ovviamente non farò il nome, fa risparmiare oltre 30 euro. Allora, stiamo dicendo che già oggi il mercato libero offre delle opportunità che però, e qui do un avvertimento, risentono molto del giorno in cui si fa la domanda, ma soprattutto delle necessità, delle abitudini, dei comportamenti d'uso del cliente. Tanto maggior risparmio anche nel mercato libero, se c'è la bioraria, ci sono delle offerte che sono a prezzo bloccato e che potrebbero in certi casi dare maggiori risparmi che superano questi aumenti. Ecco, no? Ingegner Grossi, tra l'altro lei prima ci citava una cifra, 5 milioni di utenti che da quando il mercato dell'energia elettrica si è liberalizzato hanno approfittato appunto delle nuove offerte sul mercato, quindi spostandosi con agilità, più o meno con agilità, perché non è sempre molto agile il trasferimento, questo va detto. Ritiene che sia soddisfacente quindi la cifra che lei ci ha dato, 5 milioni di famiglie che hanno fatto il passaggio di operatore, o si poteva fare molto di più? Quali sono i limiti che ancora impediscono a molte famiglie di fare questi passaggi? Allora, intanto il numero è un numero di assoluta importanza, eccellenza nel quadro europeo, tenuto conto i pochi anni, dal 2007 che si è aperto il mercato elettrico, no? Luglio 2007, quindi confrontando anche con le migliori esperienze europee, questo numero, stiamo parlando del oltre il 18%, una famiglia su 5 che è passata al mercato libero, è un numero molto importante, molto significativo. Si può fare di più? Certamente. Io credo che, e questo è il motivo anche per cui l'autorità dell'energia si è riorganizzata con una focalizzazione sulla tutela dei consumatori, una direzione che quindi punterà molto all'informazione, aumentare l'informazione alle famiglie, perché ancora molte non conoscono le opportunità che possono cogliere nel mercato libero. Per esempio, ingegner Grossi, quanti utenti avete riscontrato che fanno utilizzo del vostro trova offerte per cercare di individuare la condizione migliore per le proprie abitudini di consumo? Ma guardi, noi abbiamo delle statistiche a cadenza settimanale, ma con una granulosità giornaliera, e stiamo parlando di più di 1000 accessi al giorno per utilizzare questo strumento che stiamo cercando di migliorare, ma che da un'indagine che abbiamo fatto risulta già essere molto gradito per la semplicità d'uso. Basta mettere la città, il codice di riavviamento postale, quindi che la individua, il consumo che si vede in bolletta, quindi il numero di kilowattore consumate nell'anno, ma soprattutto il riparto, parlo dell'energia elettrica ovviamente, di questo consumo tra la fascia più costosa di punta F1 e le altre fasce meno costose F2-3. E poi da lì, ecco, si scopre se uno, suggerisco, lascia, vuol vedere tutte le offerte presenti al momento, ha la possibilità di avere un confronto. E qui, attenzione, non limitiamoci solo al prezzo, ma bisogna andare a vedere con attenzione anche le informazioni sull'offerta, tutte le condizioni. Potrebbe esserci un'offerta che magari è leggermente meno conveniente come prezzo, ma in che incontra meglio le esigenze del consumatore. Più servizi, magari un call center che risponde in orari diversi rispetto agli altri. Oppure per dire la bolletta inviata in formato telematico. Esattamente, sono cose che peraltro avevamo già così un po' immaginato di raccontare anche con gli altri esponenti degli altri due comparatori di forma privata, appunto, che sentiremo più tardi, perché effettivamente non è detto che il consumatore poi voglia solo ed esclusivamente risparmiare in termini di denaro, ma voglia a volte qualcosa di più anche in termini di servizi da parte di questi erogatori, distributori, chiamiamoli così, appunto, soggetti del mercato elettrico, del mercato del gas. Pieraldo Isolani, torno da lei, non è una puntata sui comparatori di tariffe, però diciamo che sono strumenti molto utili per poter capire qual è il soggetto migliore per le mie esigenze. Secondo lei il mercato, dato che è diventato tanto aggressivo anche come proposta, appunto, si fanno gli sconti anche in questo settore, giustamente, anche se poi non è che si possa fare più di tanto, sono comunque strumenti che hanno ritrovato riscontro dei consumatori negli ultimi tempi, visto che peraltro proprio i comparatori, a prescindere da quello dell'autorità, quelli in forma privata, sono letteralmente proliferati sul mercato. Sì, Ingegner Grossi, che saluto tra l'altro, ha parlato appunto delle possibilità che ci sono per capire bene, per orientarsi meglio, insomma, su come scegliere. Sicuramente queste opportunità sono molto valide e la possibilità di scegliere è abbastanza ampia. I problemi però sono due che vorrei citare, dando anche qualche consiglio ai consumatori. Cioè, purtroppo la struttura della bolletta elettrica e i costi che sono insiti lasciano allo stato attuale poco spazio per effettivi offerte significativamente convenienti dal punto di vista economico, perché purtroppo una parte delle bollette elettriche e del gas sono fisse, sono costi fissi e quindi non sono nella disponibilità delle società venditrici. La seconda cosa che io vorrei dire ai miei ascoltatori della trasmissione è che di fare oltre a seguire nei consigli che diceva l'ingegner Grossi, cercando di scovare l'offerta migliore con il trovo offerte o con altri comparatori, di stare molto attenti alle persone che li contattano per andare a fare offerte sul mercato libero. L'ingegner Grossi sa bene che c'è una questione molto grossa in discussione in questo momento anche con l'autorità per l'energia, che riguarda appunto i contratti non richiesti. E purtroppo le vittime sono anche molto spesso le persone anziane, che si vedono circuite da persone che vanno in casa, che cercano di vendere il nuovo contratto, magari gli chiedono di fargli vedere le bollette e poi insomma escono fuori con dei contratti firmati e non si capisce bene. Non si capisce bene a chi sono, e a quel punto lì per rimuoverli la cosa diventa molto complicata, e quindi è veramente una cosa molto, molto grossa. So che l'autorità la conosce molto bene, stanno lavorando, poi ci faremo raccontare dall'ingegner Grossi a che punto sono sul monitoraggio di questi fenomeni. Io tanto per raccontarvene una, l'ho raccontata prima anche all'ingegner Grossi, insomma sono ritrovata con mia mamma, a cui un operatore di cui non ho voluto conoscere il nome della società per la quale lavorasse, appunto, ha detto: guardi signora, sono un operatore appunto di questo settore, la tariffa bioraria si è conclusa, pertanto deve rinnovare il contratto, dobbiamo firmare appunto una nuova relazione con questa azienda. Per cui insomma queste sono poi le derive che si verificano quando i mercati effettivamente si liberalizzano molto e a volte generano anche della confusione. Però ci possiamo tutelare, e se arriva uno che ci chiede di firmare un contratto in 2 secondi, ecco, quello proprio in primo luogo è il soggetto dal quale stare lontano, perché non dobbiamo firmare in 2 istanti, proprio un bel niente. E allora noi stamattina stiamo cercando di capire cosa si può fare, e chiaramente oggi le grandi opportunità, le migliori opportunità sono offerte, oltre che della modifica dei comportamenti, anche della ricerca dell'operatore che ci faccia le condizioni migliori. Come si fa a trovare il miglior operatore per le nostre esigenze? Perché è chiaro che non esiste il migliore in assoluto, ci sono tanti modi. Ci sono molti comparatori di tariffe che, oltre a quello istituzionale dell'autorità per il gas e l'energia, fanno questo lavoro per noi. Noi stamattina ne sentiremo un paio. Saluto e ringrazio Alberto Mazzetti, fondatore e amministratore delegato di SOS Tariffe. Mazzetti, buongiorno, bentornata a Salvadanaio. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E benvenuto anche a Daniele Viganò, presidente invece di mybestoption.it. Viganò, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo che sono con noi anche l'ingegnere Alberto Grossi, direttore consumatori e qualità del servizio dell'autorità per l'energia e il gas, e Pieraldo Isolani, responsabile settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori. Volevo leggervi qualche messaggio che ci sta arrivando da parte di tanti ascoltatori. Un ascoltatore da Firenze ci scrive: isolando termicamente l'abitazione, aumentandone la classe energetica, grande argomento all'ordine del giorno, il consumo del gas cala drasticamente, il costo per scaldarla, ma ahimè costa molto rimodernare ed isolare, giusto? Anche quello è un investimento molto importante che si deve fare. Un'ascoltatrice, alla quale va tutta la mia solidarietà, ci racconta: ho lavato piatti a mano per 30 anni, da poco ho la lavastoviglie, non c'è paragone, mangerò di meno per risparmiare, ma non rinuncio ad usarla, la farò solo di sera. Prima di sentire i nostri comparatori, ingegner Grossi, volevo tornare per un attimo a lei. Perché, terminata la cosiddetta fase sperimentale di utilizzo della bioraria, 18 mesi, nel corso dei quali abbiamo invitato molti consumatori a modificare le abitudini di consumo, quindi a accendere un po' meno la lavatrice nel corso della giornata per utilizzarla di più di sera, a costo pur di andare incontro a qualche disagio condominiale, perché anche di quello abbiamo parlato. Adesso è terminata, no, questa non era un'applicazione sperimentale, questi 18 mesi sono serviti a fare che cosa, e adesso che cosa succede dal primo gennaio? Dal primo gennaio termina la fase della bioraria calmierata, tra virgolette, si passa al differenziale vero di costo di produzione dell'energia elettrica, ma nel frattempo questo ingresso prepotente del fotovoltaico ha spostato anche la composizione nel mix di produzione dell'energia elettrica, per cui si è assistito ad un avvicinamento dei costi di produzione delle varie fasce. Resta ancora ovviamente più costosa la F1, ma meno di quanto fosse in passato. Allora, c'è una tendenza in atto che è stata avviata, dove questo porta a smorzare l'impatto della bioraria effettiva. Ecco, nella tabella che è stata approvata a fine anno con l'aggiornamento di prezzi e tariffe, questo fenomeno lo si può vedere molto bene, e si vede che la differenza tra l'F1 e F2, parliamo ovviamente del prezzo dal punto di vista del consumatore, siamo su un 6,6%, quindi molto meno di quanto poteva essere 2 anni fa. Quindi diciamo è meno conveniente insistere sull'utilizzo notturno degli elettrodomestici rispetto al passato, pur presentando sempre dei vantaggi economici, risultano un po' più marginali? Marginali, ma è tuttora presenti, stiamo parlando di qualche euro che si può risparmiare se si rimane nel mercato di maggior tutela. Ecco. Questi risparmi potrebbero, e lo sono in alcuni casi di alcune offerte, amplificati nel mercato libero, che può seguire a seconda delle offerte anche delle valutazioni, delle calcoli del prezzo differenti rispetto a quello dell'autorità. C'è un ascoltatore che ci scrive: bolletta Enel alla mano, vabbè, lui ha questo fornitore qui. Deborah mi scrive: la seria differenza fra la tariffa giornaliera e quella notturna, 9 millesimi di euro a kilowattora, neanche un centesimo. Evidentemente questo utente, ingegner Grossi, è rimasto nel mercato di maggior tutela? È rimasto nel mercato di maggior tutela, e poi dipenderà molto da quello che è la sua composizione, perché ricordo che se un terzo del consumo è nella fascia F1 e 2/3 circa nella F2-3, siamo all'indifferenza, quindi non c'è nessun guadagno né nessuna perdita. No? Allora, dipenderà molto da quello, bisogna andare a vedere, leggere nella bolletta, c'è una tabellina che riepiloga la ripartizione percentuale, certo, da lì si può vedere. Sarebbe interessante poter avere l'opportunità di fare delle scelte molto drastiche, quindi usare solo ed esclusivamente dalle 9 in avanti, certo, gli elettrodomestici, certo, dalle 19 in avanti, 19 o 21? 19? 19. 19, ecco, infatti, se no avremmo veramente vanificato tutta, sì, l'operazione. Allora, andiamo un po' alle iniziative del mercato libero, e naturalmente la prima testimonianza che voglio raccogliere è quella di Libero da Roma, altrimenti che Libero sarebbe? Libero, buongiorno. Buongiorno dottoressa, complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Senta, ho trovato interessante questo argomento stamattina, l'ascolto spesso, perché ho utilizzato il mercato libero, l'ho utilizzato passando dalle municipalizzate ai privati, però a questo punto adesso ho fatto un altro ulteriore cambiamento, e ho notato, poi confrontando le tariffe dell'ultimo, io parlo del gas e anche dell'energia elettrica, che le tariffe che io pago, diciamo, dovrei pagare con il nuovo contratto, diciamo, che sarà attivato da un gestore. Quindi ha fatto il cambio proprio di recente, Libero? Sì, ho fatto anche un cambio, l'ho fatto già 2 anni fa, però mi sono trovato male sulla lettura, la lettura della bolletta, e questo è un altro handicap non guardi, di poco conto. Infatti, anche la più chiara possibile è incomprensibile a noi comuni mortali, d'altronde, certo, Libero. No, invece adesso, non so se posso fare il nome, facciamo questa pubblicità con la Edison. Con la Edison mi hanno detto: guardi, che lei può utilizzare la fascia monoraria al prezzo già stabilito per tutto l'anno di 20 o 25 euro, secondo quello che lei pensa di consumare, che, purché non superi i 1900 kilowattora all'anno. Dice, per cui la sua bolletta bimestrale sarà di 20 o 25 euro secondo la mia scelta, altrimenti se lei non supererà questo consumo il costo sarà più basso, sarà anche rimborsato. Quindi Libero, rispetto a, diciamo, la situazione precedente, lei adesso quanto andrà a risparmiare, riuscirà a contenere gli aumenti che sono in vista? Esatto, non solo, ma io ho notato questo, sono andato a rivedermi le bollette passate, era questo qua la cosa importante. Cioè, in un momento in cui uno va a vedere tutto, sono andato a rivedermi le vecchie bollette, diciamo, dei precedenti fornitori. e ho notato che con questo sistema a tariffa fissa, ad esempio parlo dell'energia elettrica, a tariffa fissa, diciamo che poi con l'eventuale conguaglio di fine anno, ho notato che io risparmio anche 20-30 euro a bimestre. Ma è possibile che sia che possa aver scoperto questo? Certo, o dice insomma non appena arriverà la prima bolletta mi ritroverò qualche altra sorpresa. D'altronde l'azienda che ha citato si è preso un testimonial eccezionale, per cui avrà anche pattuito delle condizioni: guarda, fammi trattare al meglio i consumatori perché sennò non ci voglio mettere la faccia. Libero, aspetti lì, voglio sentire l'associazione dei consumatori per capire se insomma è un'offerta così allettante, perché altrimenti andremo tutti là. Isolani, a che cosa deve fare attenzione Libero rispetto a tutte le promesse che questo fornitore ha fatto? Bisogna fare molta attenzione, soprattutto a queste offerte cosiddette fisse, perché se non è solo Edison che le fa, c'è anche un'altra cosa, società italiana che le fa, bisogna fare attenzione, perché se noi abbiamo un consumo costante vicino, molto vicino al consumo della fascia che abbiamo scelto, allora diciamo che c'è una certa convenienza, perché l'operatore ha una può programmare, diciamo così, i suoi acquisti di energia in un certo modo e quindi può fare degli sconti maggiori. Ma attenzione, perché se consumiamo meno e paghiamo sempre la stessa cifra, è ovvio che ci rimettiamo. Se invece consumiamo di più, anche soltanto in alcuni esatto, mesi, cioè non è possibile che sia un tetto. Il prezzo pagato per i kilowatt pagati in più sia molto più alto della meta. E quando arriva quello a conguaglio poi, Isolani? Esatto, poi ecco. A un certo punto arriva a conguaglio, dipende dal contratto che è stato fatto. Normalmente sono conguagli annuali, quindi mi aspettare quando c'è il conguaglio annuale. Quindi anche sui risparmi che diceva il signore prima dei 20-30 euro a bimestre, attenzione, vediamo quando c'è il conguaglio, se è così, eccetera. Cioè, diciamo che dobbiamo avere un certo grado di sicurezza di mantenere piuttosto inalterati i nostri consumi. Sì, ma inalterati e vicini alla soglia, alla fascia che abbiamo scelto. Certo. E anche lì come poterla individuare in bolletta è un altro bel argomento. Allora, esatto. Io adesso direi, facciamo una cosa, prima di cominciare a chiacchierare con Viganò e Mazzetti, volevo subito sentire suggerimenti per chi è in viaggio, che chiaramente non sono ancora pronti. Allora faccio fare una battuta sul tema che abbiamo appena ascoltato, il tema della tariffa fissa, all'ingegner Grossi, ingegnere dell'Autorità dell'Energia. Sono offerte che sicuramente sono allettanti, no? Perché è un po' come i mutui con il cap. Oltre lì non si va, però arriva a un certo punto in cui chiaramente tutto quel residuo di consumo, se si manifestasse, andrà pagato. Devono essere molto chiare le aziende che praticano queste condizioni anche su quando poi questo extra consumo si pagherà e come? Certo, sì, dipende molto, come dicevo, da vedere quali che sono le condizioni espresse dall'offerta. Ha fatto bene l'esempio dei mutui, è chiaramente una scommessa il prezzo bloccato, perché potrebbe cambiare l'andamento di quello che sono i parametri di riferimento e quindi cambiare le condizioni. E aggiungo anche un altro suggerimento: attenzione, per chi scegliesse, guardare bene la data, perché per esempio sul nostro trovo offerte nella giornata sono tenuti a dare l'offerta, potrebbe essere che proprio in questi giorni, alla luce dei nuovi aggiornamenti, cambino le offerte, ecco. Quindi bisogna stare molto attenti, stare aggiornati, quindi non fidarsi, ho visto un'offerta una settimana fa, pensare che sia ancora in vigore. Ecco, insomma, proprio come fanno le banche, poco prima di andare a firmare il rogito, 3 secondi prima del rogito, le condizioni sono cambiate, non vorrei che anche in questo settore si utilizzasse questa pratica che non è troppo simpatica. Tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo anche su Facebook, qualcuno dice ma perché non si consiglia, mi pare proprio un'azienda che peraltro opera nel settore, perché non si consiglia a tutti i cittadini di installare un impianto fotovoltaico? Vabbè, non credo che sia poi così semplice e banale poterlo fare ovunque, ma magari a questo tema ci dedicheremo una puntata apposita con la collaborazione del nostro strepitoso Maurizio Medis, che è bravissimo su questi argomenti, e quindi andremo sul dettaglio del fotovoltaico. Andiamo adesso alle bollette. Allora, Alberto Mazzetti, SOS Tariffe, buongiorno e ben ritrovato. Un comparatore di tariffe, così come My Best Option, che sentiremo fra poco, che mette a disposizione dei consumatori e degli utenti comparazioni su settori differenziati. Soffermiamoci appunto all'energia e il gas. A prescindere dal fatto che il consumatore, mi pare abbastanza scontato, cerchi l'offerta migliore, cerchi di pagare sempre meno, ma ci sono anche altre variabili che interessano gli utenti quando si mettono a comparare appunto le offerte, per esempio sul vostro sito? Sì, assolutamente. Diciamo che abbiamo notato che moltissimi utenti guardano anche moltissimo ai servizi che gli operatori offrono, i fornitori di energia offrono, quali ad esempio la fatturazione elettronica, piuttosto che alcuni offrono addirittura la possibilità di fare un'autolettura sul proprio portale internet, in modo tale da non avere conguagli troppo elevati o comunque sorprese in fattura. Quindi diciamo che il driver principale sicuramente è la convenienza, ma vediamo che non è l'unico. Inoltre, appunto, sul comparatore di energie e gas di SS Tariffa è possibile anche scegliere alcune caratteristiche aggiuntive, quali ad esempio tutte le tariffe di energia che offrono energia verde, oppure ad esempio filtrare i risultati per solo tariffe con prezzo bloccato o solo tariffe con appunto, tariffa indicizzata. È possibile stabilire il profilo dell'utente che come dire, fa molto lavoro di comparazione e che quindi è molto attivo anche nella ricerca delle condizioni migliori sul mercato, e soprattutto appunto visto che prima l'ingegner Grossi chiaramente riferendoci rispetto a quello che accade sulle portale dell'autorità, sul comparatore appunto dell'autorità, ci diceva che addirittura è possibile per la famiglia media monitorata dall'authority arrivare ad un risparmio di circa 30 euro anche a trimestre. Appunto, voi siete riusciti anche a quantificare un risparmio che può essere raggiunto da una famiglia che magari si movimenta, si attiva e cerca condizioni migliori sul mercato anche attraverso il vostro portale? Confermo il dato dell'ingegner Grossi, per quanto riguarda l'energia elettrica. Sul gas è possibile risparmiare ancora di più, si parla in alcuni casi di oltre 100 euro di risparmio su base anno. Inoltre, chiaramente, su SS Tariffe consigliamo l'utente non solo dal punto di vista delle tariffe, ma anche con delle guide per eventualmente migliorare l'utilizzo dei propri elettrodomestici, piuttosto che, come appunto testimoniava un utente prima, migliorare magari le condizioni della propria abitazione per avere meno dispersione termica. Infatti, no, c'era un ascoltatore che ci ha scritto: ma come lavare i piatti a mano costa di più che con la lavastoviglie? Già, ma non abbiamo detto questo, è l'ascoltatrice di prima che ha detto che dopo averli lavati a mano per 30 anni adesso ha scoperto le gioie, le meraviglie della lavastoviglie e non la vuole più abbandonare, ma non per questioni economiche, proprio per questioni di che si era stufata l'ascoltatrice di lavare a mano, punto e basta, per cui pur spendendo un po' di più ovviamente non la vuole abbandonare, magari risparmierà, ha detto, su altri fronti. Daniele Viganò, qual è invece l'esperienza di My Best Option sulle condizioni che cercano i consumatori che vogliono alleggerire il peso della bolletta? Insomma, tutte le volte che apriamo la cassetta della posta e troviamo queste buste lì dentro, sono dolori ancora prima di aprirle. Certo, ma partiamo da un presupposto, no? Poi si è visto anche in questa, si sta vedendo, si sta ascoltando anche in questa trasmissione. Leggere le bollette per noi comuni mortali è difficilissimo e diventa sempre più difficile, e ci vuole a volte quasi un ingegnere. E poi evidenziamo anche un problema, che oggi tutti cercano il risparmio, dovuto anche a queste brutte notizie che arrivano dal nostro governo. Detto questo, noi quello che offriamo con My Best Option è chiarezza, trasparenza, ma soprattutto supporto. Secondo noi le famiglie hanno bisogno, soprattutto oggi come oggi, di supporto. Noi quando un utente va sul nostro sito gli diamo la possibilità di essere messo in contatto rapidamente con un operatore nel giro di circa 5 minuti che lo possa supportare nella miglior scelta possibile, perché qua la domanda più grande è vero, ma con tutte queste terminologie, bioraria, monoraria, lettura della bolletta, posso sì o no risparmiare 30-40 euro? Secondo la nostra idea c'è bisogno di un operatore che noi mettiamo a disposizione in maniera gratuita e che possa accompagnare passo dopo passo l'utente nella scelta migliore, che non sempre è la scelta economica, spesso è anche la scelta migliore per la propria famiglia. Abbiamo parlato di monoraria, bioraria, ma è vero anche che c'è molta gente che preferisce anche la monoraria perché evidentemente vuole essere più comoda. Ecco, noi diamo un supporto di questo tipo che secondo noi è, direi, basico. In termini invece di servizio offerto dal distributore Viganò, qual è la ricerca più insistente che viene fatta dalle famiglie? Non so, il call center che ti risponde quando tu hai bisogno, piuttosto che la fatturazione elettronica, piuttosto che altro, che cosa si ricerca un po' di più utilizzando sempre i servizi dei vostri portali? Secondo la nostra esperienza, i nostri utenti, il supporto al cliente. Il cliente, secondo noi, e anche ci scrivono in Facebook per dircelo, sono anche disposti a spendere qualche euro in più, ovviamente sempre cercando il risparmio, che è basico per tutti quanti, a maggior ragione oggi, però alla fine vogliono poter avere un servizio. Se io ho un problema, devo poter chiamare qualcuno e che mi risolva questo problema, perché poi sono a volte bravi a darti il servizio, ma poi magari meno bravi ad assisterti. E per noi abbiamo evidenziato, ormai da migliaia e migliaia di utenti che abbiamo fatto cambiare di operatore, che il fatto anche per noi di dargli il supporto e di aiutarli a leggere le bollette, il gas, l'elettricità o altre, e di dargli questo servizio è premiante, vale, insomma, certo, molto qualcosa di più. Grazie a My Best Option, a Daniele Viganò e a SOS Tariffa Alberto Mazzetti. Due minuti di tempo prima di concludere, li vorrei concludere con l'ingegner Grossi. Ci sono molti ascoltatori ingegnere che lamentano la questione che non è che in bolletta ci siano grandi risultati se si trasferisce il consumo e l'utilizzo degli elettrodomestici in fasce orarie che secondo la bioraria appunto sarebbero più vantaggiose. C'è un'ascoltatrice che ci ha scritto, fantastica Donatella, ci ha scritto sempre in termini di modifica di comportamenti: da un anno circa scaldo l'acqua per cucinare con un bollitore elettrico, un minuto ho l'acqua pronta, col gas ne servono almeno 5. Un micropasso, ingegner Grossi, però mi sembra anche questo un suggerimento molto utile. Sì, bisogna stare attenti poi a quello che è l'utilizzo, la convenienza, su tanti aspetti, però la cosa importante è entrare in una cultura che l'energia elettrica e il gas sono beni preziosi, non devono essere sprecati, e che quindi questa è l'attenzione che dovremmo avere nel futuro. Al di là dell'introduzione della bioraria, anche i temi che diventeranno sempre più importanti, il risparmio energetico, l'efficienza energetica, si è parlato di fotovoltaico, ma anche proprio scelte di apparecchiature nella casa, no? Saranno temi sempre più di attualità. Questo in una logica di sensibilizzazione del valore dell'energia e di fiducia nel mercato. Io ho sentito il tema della riecheggiare il tema dei contratti non richiesti, voglio dire che l'autorità sta lavorando con grande attenzione su questo, il fenomeno sta iniziando a rientrare. Ingegnere, devo salutarla perché è arrivata la sigla, siamo contenti di questo, la reinterpellerò per farci raccontare anche come difenderci da questi fenomeni. Vi ricordo lo sportello per il consumatore dell'autorità 800 166 654. Salvadanaio termina qui, a domani, buona giornata.